in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Il primo sabato dell'anno cominciamo questa rassegna stampa con una buona notizia, almeno probabilmente lo è, e cioè che l'Unione Europea, sempre incolpata di varare norme, sempre insomma incolpata a volte da alcuni, correggiamoci, iniziamo bene l'anno con precisione, di varare norme inutili o che rendono ancora più difficile la vita delle persone e delle aziende, da poco è entrato in vigore il bando al quello che potremmo definire l'erede del DDT. Dopo lunghissime discussioni, l'Unione Europea ha vietato l'uso di questo clorpirifivos, il più diffuso pesticida al mondo, sospettato tra l'altro di provocare danni neurologici. E questo è un lungo articolo che trovate su voxeurope.eu, preso da Mobile Reporter, ed è tutta un'inchiesta e tra l'altro fa anche vedere quanto di questo pesticida è stato trovato, dato che naturalmente ha portato al divieto appunto dell'uso, è stato trovato in alcuni tipi di ortaggi e di frutta, quindi dai pompelmi alle pesche. Molto interessante, perché anche fa vedere come, e anche questa non è proprio una novità, come negli Stati Uniti ci sono moltissimi ancora casi in cui questo erede del DDT o altri tipi di pesticidi altamente tossici vengono usati. Sapete che tra Stati Uniti e Europa, sì certo, ci sono alcune regole della WTO che dovrebbero valere, però per il resto negli Stati Uniti ci sono regole sull'uso per esempio dei pesticidi diverse da quelle che sono in vigore all'interno dell'Unione Europea. Beh, una storia che sicuramente avrete sentito, noi ne abbiamo dato notizia, credo, qui alla radio quasi per primi, perché era arrivata nella notte precedente di martedì scorso, e poi naturalmente i giornali hanno cominciato a seguirla, e Le Figaro in particolare sta dando continui aggiornamenti. Parliamo naturalmente di Carlos Ghosn, che è l'ex numero uno della Nissan Renault, quindi da una parte la Renault, che è una delle grandi case automobilistiche francesi, dall'altra il colosso giapponese. Avevano fatto una sorta di joint venture, se non proprio una fusione, e però negli ultimi anni le accuse indicano che Ghosn si è reso colpevole di una serie di malversazioni, ha intascato utili che non gli spettavano, ha usato carte di credito in un modo molto allegro, diciamo così. Insomma, le accuse in realtà sono talmente gravi e sono state fatte direttamente in Giappone, che era stato già incarcerato per 13 mesi, poi liberato con una cauzione da 9 milioni di dollari. Dopodiché, nella notte tra lunedì e martedì in Italia, è scomparso dal Giappone. La fuga rocambolesca. Le Figaro in particolare dice che il prossimo capitolo interessante, insomma, a parte retroscena, di cui avrete letto sicuramente anche sui giornali italiani, sarà l'8 di gennaio, quindi mercoledì prossimo, a Beirut, quando Ghosn appunto terrà una conferenza stampa, e vedremo se insieme ai suoi legali darà qualche particolare in più. Ci sono anche buone notizie, insomma questo anno si apre con anche la nascita del governo in Spagna. La Spagna viene da un periodo politico molto travagliato che ha portato a elezioni anticipate. Ora il premier Sanchez, come abbiamo detto tante volte nelle ultime puntate di Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, alla fine nel dicembre dello scorso anno, e non si riusciva, Sanchez era stato incaricato dal re di formare un governo ma non riusciva a farlo. Invece è il País, è il Mundo, l'Avanguardia, tutti i quotidiani spagnoli danno appunto la notizia che finalmente l'accordo è stato firmato. Dovrebbe concretizzarsi tutto con firma ufficiale e annuncio della composizione nei dettagli del nuovo governo il giorno dell'Epifania, quindi mancherebbero 2 giorni. Dalla Gran Bretagna ovviamente tantissime notizie sul come hanno trascorso il Natale i reali, perché comunque la famiglia reale in Gran Bretagna fa sempre notizia, e vi segnalo in particolare questa dichiarazione che hanno fatto e che è stata un po' ripresa da tutti i giornali: William e Kate, cioè i duchi di Cambridge, quindi il primogenito di Lady Diana e sua moglie, che hanno deciso di iniziare questo questo nuovo decennio, e qui faccio una notazione curiosa. Attenzione, perché in realtà sì, è molto facile pensare il 2020 inizia il nuovo decennio. In realtà il nuovo decennio inizierà quando finirà il 2020, ma per una questione proprio matematica. Però insomma ci cadiamo, piace molto pensare che appunto è finito un anno, inizia un nuovo anno, inizia una nuova decade, ma non è proprio così. Comunque, siccome appunto è un piccolo errore veniale che stiamo facendo tutti, allora vi dico appunto che William e Kate hanno iniziato il nuovo decennio all'insegna della difesa del pianeta. Questo scrivevano tutti i quotidiani britannici. Hanno promesso un decennio di azioni per riparare la Terra e hanno per questo anche lanciato un premio che si chiamerà Earthshot Prize, quindi potremmo dire un tiro a favore, un grande favore, ecco, potremmo tradurlo così in italiano, alla Terra, che verrà assegnato a 5 persone ogni anno tra il 2021 e il 2030. È un premio in denaro per individui e organizzazioni che proporranno soluzioni a problemi ambientali. Dalla BBC, che ha sempre, e vi consiglio anche per magari chi avesse voglia di avere un po' di inglese con un accento decisamente britannico nelle orecchie, che aiuta sempre, vi invito a seguirlo, poi sul sito ci sono tantissimi video e ha moltissime notizie naturalmente internazionali e con un occhio di particolare riguardo a tutto quello che una volta era l'impero britannico, quindi quando ci sono stati gli attentati in Nuova Zelanda, tantissimi approfondimenti, e ormai da un mese sta seguendo, qui ce ne siamo accorti da qualche giorno, gli incendi che stanno devastando l'Australia. E quindi dalla BBC appunto tantissimi servizi con le voci delle persone che hanno dovuto lasciare la casa o che addirittura hanno dovuto essere salvati perché non riuscivano nemmeno a superare gli incendi, e poi purtroppo le cronache veramente dolorosissime, sia naturalmente delle persone, degli esseri umani morti, però il bilancio lì è sorprendentemente, visto la dimensione degli incendi, sorprendentemente basso, siamo sotto le 20 vittime, e invece tra mezzo miliardo e un miliardo di animali sono morti nelle fiamme di tutti i tipi. E poi naturalmente ci sono tutte le piante, gli acri e acri e acri di foresta bruciata. Dal Times vi segnalo una notizia che riguarda il nostro paese, perché per questo quotidiano britannico Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia, è l'unica italiana tra le personalità scelte che potrebbero dare un contributo a cambiare in qualche modo il 2020. Sicuramente fa notizia, sia perché in un paese dove il gap tra uomini e donne nelle posizioni in generale, attraverso tutta la classe dirigente, è ancora enorme rispetto ad altri paesi europei. Fa notizia anche perché è l'unica leader di un partito in Italia, e quindi insomma vengono anche naturalmente riportate alcune sue posizioni che conosciamo bene anche noi naturalmente in Italia, in particolare di forte confronto e critica verso l'Unione Europea, verso come vengono concordate e organizzate le azioni dell'Unione Europea. Però insomma è comunque si è fatta notare, ecco, Giorgia Meloni. Vi segnalo invece dalla Welt, un quotidiano tedesco, un articolo su ShareNow, che è un colosso tedesco del car sharing nato dalla fusione tra Car2Go e DriveNow, che ha deciso di ripensare le proprie attività nel Nord America, ma anche in Europa, a partire dal prossimo 20 di febbraio. Le flotte verranno decisamente ridotte, perché forse anche nel car sharing c'è stato un po' una bolla, cioè sicuramente non sparirà, però forse sono nate troppe società di car sharing e non c'è evidentemente domanda, posto, mercato per tutti. Vi segnalo poi da Internazionale Kids, che è il mensile di Internazionale dedicato ai più giovani, ed è preso, sono articoli esattamente come il fratello maggiore internazionale, sono articoli presi dalla stampa internazionale, spesso da quegli inserti che vengono fatti proprio per un pubblico più giovane. Quindi, per esempio, vi segnalo da questo articolo intitolato Squali in fuga, e lo segnalo perché magari non ci sono tanti bambini all'ascolto, ma sono articoli bellissimi che vanno bene anche per gli adulti, esattamente come a volte l'editoria per ragazzi è proprio è fatta di libri, di autori, di disegni che sono piacevolissimi da leggere, da sfogliare anche per un pubblico adulto. In questo caso l'articolo è tratto da Zeit Leo, che è la sezione Leo appunto dedicata ai più giovani del settimanale tedesco. Squali in fuga, ci racconta Alina Schwandwinkel, lo squalo più veloce del mondo, sfreccia nei mari a una velocità di 70 km all'ora e ogni anno attraverso gli oceani in lungo e in largo. Si chiama Mako e naturalmente anche lui è in pericolo per colpa dell'uomo, in particolare per la pesca, per le pratiche di pesca selvaggia e non regolamentata che ci sono un po' dappertutto. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato e naturalmente buon anno da Giulia Crivelli.